canale 10, c'è qualcuno qua? Esatto, sì, ti ho detto che non c'è nessuno ai bombi. Ah, brutto monello che non sei altro. Ma cosa ti devo per farti capire che non c'è nessuno? Lasciati la portante fissa. Ehi, così dopo ti faccio parlare con Mulo. No, guarda, di muli ce ne sono tanti, con le orecchie lunghe e la coda altrettanto lunga, e scalciano pure a volte. Lo so, Gianfra, un interrogativo si può? Ma facile, non fare domande difficili. Lo conosci l'RT95? Sì. Aspetta un attimo, scusa, ti rispondo tra poco che mi stanno chiamando. Un secondo solo. Sì, c'è una comunicazione di servizio. Dimmi pure, Natale. Non riesco a mettere il tono per i ponti. C'ho il manuale, però, e anche il cavo per programmarlo, però non ho il software per programmarlo, diciamo, perché non so se vuole messo nel canale questo tono, non ho capito bene. Dunque, allora premettiamo che ogni radio c'ha il suo menu, il suo modo di inserire le cose, e purtroppo non sono tutti uguali, quindi bisogna capire di cosa stiamo parlando. Tu hai detto che c'è l'accesso anche al menu, quindi dovrebbe essere facile. Cosa vuoi sapere di preciso? Quali sono i toni per ogni singolo ponte? O come proprio si mette il tono, come si programma il tono? Come si programma il tono? Perché non funziona. Ho messo lo shift giusto, però non lo apre. Per esempio l'R7 Alpha. L'R7 Alpha. Oh, yeah. Aspetta. Per darti proprio la certezza di quello che stai facendo, devo accendere il computer. E vedere. Quindi ti posso dire anche quello degli altri, tanto che ho il coso, no? C'ho la programmazione, e quindi mi accorgo subito cosa c'è e cosa non c'è. L'apparecchio ti dice che c'è il tono. No, non ci ho fatto caso, però non funziona. Io l'ho inserito, ho provato a inserirlo, però nisba. Anche telecomandi ci abbiamo qua. Acquai. Tipico telecomando uso telefonico. Aspetta, dov'era? No, aspetta, ho sbagliato. Sono tutti uguali questi qua. L'apparecchio e toni ce li ha, sì, non è roba vecchia che poi va a vedere e ci manca la scheda. No, l'ho comprato nuovo questo qui. C'ho anche il cavo per programmarlo volendo. Cosa ti volevo dire? L'apparecchio è nuovo, i toni ce li ha per forza, dovrebbe averli per forza. Vediamo un po'. No, accidenti, open, ce l'avevo fatto proprio da poco, questo dei toni. Adesso te li dovrei dare, forse meglio dire. Ok. 74.4 il tono è. Così mi dici. Vediamo un po'. Eccola qua, mi hai detto che c'era. basta cercare le cose, le trovi. Caro Natalino, tu le cerchi invece non le trovi. Allora, ripetitore. 7, 20, 57, cos'era? 7 alfa? Sì signore, ho provato anche col 2 alfa, nulla. Addirittura. Che non ti allunghi. Aspetta. Ho aperto una pagina che non mi interessa niente. R2 alfa, un attimo perché ne ho tantissimi di canali, quindi gli alfa sono qua. R2 875 erano giusto, 7 alfa, sì. Sono 88,5 qua, però lo posso provare anche per togliermi il dubbio. Mi hanno detto che è cambiato. Non c'è problema, lo sappiamo subito. Aspetta, lasciami accendere l'apparecchio. Andiamo su... Tanto proprio quello. Non c'è problema di... Ecco qua, ripetitori. C'è sempre il solito disturbo anche sulla R0 e anche qua c'è. Aspetta, te lo sto quasi per trovare. Devo fare, c'è in funzione il 750 per arrivare bassino. Vediamo un po', vediamo. Ah no, un attimo, Natale. Sì. Se sei tu, sei in un... No, no, no, non sono io. Sì, ti confermo, 88,5. Ma siccome io sono pignolo, notoriamente pignolo, e rompi palle anche qualche volta, voglio proprio essere certo di quello che sto dicendo. Quindi era trasmissione CTS 88,5, confermo 88,5. Allora me l'avevano dato sbagliato. Comunque neanche con quello riuscivo a farlo andare. Tu come si inserisce, lo sai? Allora, in realtà di toni ce ne sono due. Uno è di ricezione e uno è di trasmissione. Se metti quello di ricezione, cosa succede? Che tu non senti un tubo alla radio, non senti chi parla, non senti nessuno che non utilizzi quel tono. Il tono ti serve solo in trasmissione, quindi adesso aspetta che non ci vedo, mi sono gli occhiali, era il CTCSS, deve essere TX, quindi di trasmissione, che è 88,5. Ok, quindi attento che magari tu lo stai mettendo per la ricezione. Può darsi. Mi servirebbe sapere come metterlo proprio. Beh, adesso mi metti in difficoltà. Mi occorre il modello della radio. Io posso guardare il manuale e guidarti passo passo. Ma tu ce l'hai programmabile da PC? L'apparecchio è programmabile da PC, sì. C'ho anche il capo, non ho il programma per poterlo programmare, capito? Ah, buonanotte, spagnoli anche qua. Dimmi di cosa stiamo parlando, che apparato è? L'RT95. RT Retrieves. vediamo un po', doppia eccetera eccetera, manuale, vediamo se ci do, manuale italiano, eccolo qua. Perché non te l'hai scaricato il coso, il programma? Non sapevo come scaricarlo, capito? Vuoi che ti dica il sito? Lo puoi scaricare? Lo puoi scaricare? Sì, lo posso scaricare. Allora aspetta un attimino. Il manuale lo guardiamo dopo. Così. È analogico, vero? Costa talmente poco che è analogico. Doppia banda, sì. Allora vediamo cosa ci dice. Forse puoi usare anche cosa, anche Kilp, quello che un po' gestisce tutta la radio. Vediamo un po'. Allora prodotti. La radio. Vediamo un po'. Cerchiamo questo apparecchio. Com'è? Dove c'è scritto? Anche per mettere il tono. Sì, ti sto cercando il programma perché fai prima, perché col programma se li tonizzi tutto, ma gli altri ripetitori c'è lo stesso questo problema. Tutti, non riesco a metterlo proprio il tono. Mi segna RX sotto. Capito. Eccolo qua. Allora, resta 2. Vediamo un po'. Ma lo sto anche scaricando già. Allora, RT95, e mo che faccio? Lo devo installare, poi disinstallare, dai, vediamo un po', per Natalino questo e altro, così, lo sto provando, per vedere se... Allora, scanna, specificazione, sì, c'ha tutto, anche 5 toni, alle 4.50, eccetera, eccetera, sì, ascolta il caffè, il suo, sì, non è... Me l'hanno mandato con l'apparecchio. Ottimo. Allora, come faccio io a farti andare qua? Coppia. Io dovrei avere la tua email, se non ricordo male. Un attimino e controllo. Stavi dicendo che era al telefono, Gianfra. Ho detto che dovrei avere il tuo... Infatti eccolo qua. Discali.it, giusto? Sei tu. Sì, signore. Qui sto già schedato. me lo dà in diretta. RT95, oggetto at Natalino. Come era il nome attivo? Ah, Trullalla, eccolo qua. Natalino Trullalla. Inviasi. Link per download programma e vai, ping, mandato, ricevuto. Lasciami aprire la posta. Yes. Ecco, adesso cliccaci sopra e mi dici se ti manda dove vogliamo noi, perché io l'ho scaricato e ce l'ho anche già aperto. Quando ti apre la pagina, dimmi cosa vedi. Agricoltura, aveva poi dilettante, prodotto, soluzione, accessori, licenza gratuita, contatto, accessori. Vedo quella roba lì. Davis, giusto? Sì, sì. Ma non ho capito cosa c'entra agricoltura, così io vedo, c'è il ritino 95 sulla pagina, comunque non c'è problema. Tu vai su supporto, aspetta, supporto Goligi da qualche parte. No, negativo. Dimmi il link sopra, cosa ti dice? L'URL rtfis.com/rt95-dualband-am-mobile-radio-eu-version. Quello lì te lo dà? No, negativo. Aspetta un attimo. Ecco qua, sono su Manual Film e Software, RT95. Sì, allora devi andare su, ovviamente, Film e Soft, vai. C'è scritto support sotto, contact communities. Dove devo andare? Reti brochure, nomina funzione, manuals, software, sì, ecco qua. Allora, vedrai il primo, che è quello che a noi ci interessa, RT95 SOF, versione 2.00. E quello lì è proprio. Lì Zip me l'ha mandato. Ehi, vabbè, non c'è problema, mica lo de Zippi e così te lo fa. Attenzione però, devi scaricarti sicuramente anche quello di sotto, dove c'è Win 11 Drip Install, tanto sono compatibili sia col 10, con l'8 e col 7. Quello lì scaricalo, se no poi non riesci a fare un tubo. E anche quello scaricato. Poi l'altro non lo so cos'è, la retina del Vox, quello lì, se te lo vuoi scaricalo, se non lasciarlo dove. E non mi interessa il Vox. Allora, per prima cosa, scompatta e installa il primo, quello software versione 2.00. Lo sto installando, finish, ok. Prima di finish però mettici la spunta per darti l'icona sul desktop, se no stai a cercarlo per 2 ore. Ce l'ho. Ok, adesso io ovviamente non l'installo, ma perché magari poi mi fa casino con gli altri drive che ho, però ti devi installare il driver installer, in modo che una volta che colleghi il cavetto tu riconosca subito l'apparecchio. E infatti, aspetta, eccolo qua. Allora, check live. E cosa devo schiacciare per installarlo? Quello PL23XX? Adesso metti in difficoltà perché... Aspetta che lo scarico anch'io. Speriamo che non mi faccia un'installazione, se no sono ruinato. Cosa bisogna fare? Niente, è un banale prolific 23 eccetera eccetera, una cazzata che ho già. Devi fare allora, guarda, magari Windows ce l'ha già questo drive perché era prolific, quindi prova a collegarlo. Aspetta che prendo il cavo. Ha fatto il rumorino, punku brum. Come ha inserito la radio, quello è ovvio. Perché ti ha detto che ha installato il drive o non ti ha detto niente? No, non mi ha detto niente. Allora andiamo così, tanto l'applicazione in realtà è uno. Clicca dove c'è PL23XX-M logo driver setup versione 2.0.6 bla bla bla. È un eseguibile, gli altri sono, ce ne sono solo due eseguibili. Allora, logo driver setup volume 06 è un eseguibile, quello PL23XX, quello lì è. Sì, dovrebbe contenere un po' tutti i drive, vediamo se ti fa fare ulteriori scelte oppure se se ne installa direttamente. C'è un'installazione. Ok. L'ho installato. Non ti ha chiesto niente, no? Ha fatto tutto e basta. Sì. Ok, stacca l'USB e riattaccala, vediamo se lo riconosce ad apparato acceso ovviamente. No, NISBA. Vabbè, vediamo se lo riconosce ugualmente. Allora, PL22303, te lo devi ricordare. Adesso, a sinistra del computer dove c'è Start, ci clicchi però col tasto destro, poi mi dici se è Windows 10. Sì, è il 10. Sì, allora ti faccio un po' veloce perché sono si fa tardi. Come ti stavo dicendo, sul Start, tasto destro del mouse, apparirà tutta una opzione di... Tu devi andare su gestione dispositivi. Yes, ci sono. Schiaccio. Sì, sì. Ti apparirà un lunghissimo elenco. Tu devi andare su Porte.com e LPD. Il Prolific è sulla COM 5. Ok, era quello che volevo sapere. Perfetto, lo puoi anche lasciare aperto, ma lo riduci in icona quello lì. Tanto sappiamo qual è la porta. Adesso noi, questo lo tolgo, tanto non fa niente. Riandiamo sul programma. Il programma di programmazione l'hai aperto? Ehi, l'ho aperto adesso, eccolo qua. Ok, ti apparirà tutte le case, 5 toni, canali, bla bla. Adesso dove c'è la seconda riga ci sono le opzioni, vai su set e ti chiederà la com. Questo function setup, quello lì è. No, più su, vedi che c'è file, model, trick and track, set, vai su set, set com. Ecco qua, e metto la 5, così. Ok, messo. Ok, perfetto. Adesso, siccome noi lo dobbiamo provare questo apparato, se funziona, tu devi andare sempre sotto dove ci sono le iconcine, troverai un foglio di carta, una cartella che si apre, un vecchio floppy e alla fine un computerino. Quel computerino sarebbe per fare read from radio, significa aprire la radio, quindi vedere cosa la radio contiene come programmazione, perché se tu la programmi adesso non c'è niente, quindi ti azzera la radio. Clicca su open e ti dovrebbe, e mi dici che messaggi c'ha, perché io oltre non posso andare. Model type is wrong over right. Non ha riconosciuto il modello. Guarda allora, chiedi model information, sempre su in quel piccolo menu di sopra c'è model, chiedi model information. Sì, c'è RT95 band 2 e c'è scritto cos'è praticamente. Quindi l'ha riconosciuto da quello che vedo. Quindi allora cosa dobbiamo fare? Guarda, puoi anche rifarlo l'operazione da program read from radio. Read from radio. Read data filed. Non riesce ad aprire il file, come mai? Allora mi c'è scritto PC9. Strano. Allora, chiudi il programma, spegni la radio e riavvia tutto. Non riavviare il computer, non è necessario, o meglio sarebbe anche quello necessario. Però dai, riavvia tutto. Allora, che dice? Check connection ready or cancel. Non riesce a collegarsi, boh. Ma hai riavviato tutto? Sì, però il l'apparato c'è scritto PC mode, però non si spegne l'apparato. Dalle retri, che vuol dire riprova? No, sempre così fa. C'è che riprova e nulla, annulla, ma cosa intanto? Sì, annulla. È annullato? Sì. La radio rimane sempre come PC, giusto? Sì, PC mode. Però non si chiuda quando volevo spegnerla. Stacca del cavo, il cavetto USB. Staccato. Ok. Il PC c'è sempre? Sì signore. Stacca l'alimentazione. Staccato, adesso la riattacco. Eccolo qua. Oh. Spegni anche il programma, hai chiuso il programma della radio, etc. Sì, chiusa. Ok, chiudi anche tutti gli altri programmi che ci sono in giro. Tutto chiuso. Ok, adesso collega il cavetto al computer, la radio spenta. Ecco, spenta la radio e ci ho collegato il cavo al computer e alla radio adesso. Ok, rifai in quella pagina, c'è sempre aperta quella delle periferiche. No, ma devo chiudere tutti i programmi, comunque era la 5. Sì, ma voglio vedere un'altra cosa. Allora, su Start, tasto destro, gestione sempre dispositivi. Sì, sono lì. Ok, guarda sopra, non c'è niente di giallo, qualche allarmino, è tutto regolare? Tutto a posto, Allora, vai sempre sulle porte, dove c'è, e dimmi quante porte c'hai. C'ho porta di comunicazione comune, porta stampante, prolifico USB serial com, che sarebbe la porta 5. Ah, quindi la porta 5 c'è sempre. Stacca il cavo USB e dimmi se sparisce. Sì, è sparita. Quindi la porta l'ha riconosciuta. Rimettici il cavo e dimmi se compare. Sì. Non ti dà nessun errore, vero? Tutto in ordine. Sì, signore. Quindi i driver sono installati. Ok, iconizza questo delle porte e adesso accendi la radio. Accesa. Ti segnala che è collegata al PC o no? No, adesso il programma è chiuso. Ok, apriamo il programma. È aperto il programma. Cosa ti dice la radio? Niente, la radio è sempre normale, accesa, mi dice le frequenze e quella roba lì, però non risulta collegata al PC. Va bene anche così. Allora, ricontrolliamo set. Aspetta per un attimino. Metiset.com. Mi dà la porta 1 e la COM 5. Comune COM 5. Metti la 5 ovviamente e vedi se nel display appare PC. No, negativo, non è apparso PC adesso. Ok, va bene. Vai su program, read from radio sempre, vediamo cosa dice questa volta. Sempre fallita la situazione. Cosa ti dice? Dimmi il messaggio. Filed, però c'è scritto PC mode adesso nella radio. Sì, può essere una cosa di velocità. Può essere una cosa di velocità tra seriale e computer. Un attimino. Dov'era? Manuale. Sempre in inglese ovviamente. Vediamo un po' cosa ci dice sto manuale. Aspetta che il manuale mi dice che forse abbiamo saltato qualche passaggio. Vediamo un po'. Non ci dà nessun coso. Sai che non ci vuole dire a che velocità va la porta. Non sarebbe altro che la Nitone 778, questo tra l'altro. Quindi sono parenti stretti. Sono uguali, mi sa. L'update l'avevi fatto del film, no? Nathalie ti ha detto se avevi fatto qualche update dalla radio. Infatti sono gli avvisi, vediamo un po' in base alla giornata. Non è compatibile con... ecco perché. Che pizza. E cosa è successo? C'è un avviso, attenzione prego, in base all'aggiornamento della versione, il vecchio software di programmazione precedente non è compatibile con la nuova versione di RT95. Questo è nuovo, l'ultima versione? Penso di sì, l'ho comprato a poco, te l'ho detto. Vediamo un po', se ne trovo un altro di programma, non vorrei che fosse il programma che stanno prendendo le scatole. Oh, Nathalie, allora, se è nuovo è probabile che quel programma scaricato non lo digerisca e quindi ne dobbiamo mettere uno più serio. Allora, scrivi sul computer, vai su Google innanzitutto. Sono andato su Google. Beh, ti dico cosa fare e poi ti devo lasciare. E scrivi queste parole come ricerca. C'è un programma multimodo di programmazione, si chiama CIRP. È scritto Charlie Hotel India Romeo Papa. Ok? E ci metti download separato ovviamente. Prego, sul 10 prego. Sono lì. Download CIRP. Scaricatelo. Lo stai scaricando? CIRP Daily. Questo qui, installer exe. Magari secondo me così non ti sento. Ci sono gli spagnoli fortissimi qua. Aspetta, spegniamo anche là, perché tanto sta sollevando la propagazione dappertutto. Se sei nella pagina devi deve andare dove c'è il Windows User, clic adesso per download la versione di Windows, eccetera, eccetera, che è quella sotto che te lo installi, ok? C'è scritto CIRPD, l'ultima versione dovrebbe essere, installer X. Sì, sì, l'ultima versione. Tanto c'è la pagina di download. Ed è proprio quella che vedi con scritto ultima versione, che c'è Windows 2000, XP, Vista 7, 8, 10 con 11. Altre versioni di Windows non sono supportate, c'era quasi tutte. Ok? E via. Natalia è tardissima e ti devo lasciare, se no, anche perché non ci capisco niente, c'è una preparazione con segnaloni 9, è un casino. Ci sentiamo nel pomeriggio eventualmente, tu scaricalo e se no vai a mangiare e poi ci sentiamo dopo, dai. Ok, ok. Miau, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo stasera. Ciao Gian. Comunque quello dovrebbe funzionare, poi già lo sai installare, non sei così a, come si dice, a digiuno di queste cose. Lo installi e poi con tranquillità ci metti la com, tanto quella non cambia, ok? E io lo sto scaricando, dai. Vabbè, ci sentiamo nel pomeriggio, eh? Ok, ciao ciao. Ciao ciao ciao.